nei boschi incontro l'aria di marzo. Mi fermo e mi volto, muso a nord e neve nel cuore. Poi faccio il giro di 100 portali e ritorno. Sono un lupo per tutto nei boschi. Io sono un lupo per tutto nei boschi. Mi incanto e sono il fuoco che brucia il mio fianco. Ne scoprirò coi respiri il verso, poi mi sfido di dentro un torpore profondo. L'ho getto in acqua, mi siede, aspetto che arrivi in fondo. L'odio non può confortare il pianto, camuffarsi da profondità. L'odio non può, ogni muro è un pianto, ed io sto crollando quel sole che va giù. Chi ha veduto è tu. L'universo custodisce il senno, ogni grido di senso nel suo occhio rotondo sorriderà dando pace al mondo. Respiro il tempo, l'urlo mio può soffocare il pianto, conquistare.